Con grande orgoglio cedo la parola al candidato sindaco della Lega e di tutto il centrodestra a Firenze, Ubaldo. Oh, bravo, bravo, bravo, bravo, viva! Tutto avrei immaginato un giorno di essere accanto al ministro degli interni, con tutti i rappresentanti della coalizione del centrodestra, a fare il mio primo discorso da sindaco. E voglio cominciare il mio primo discorso da sindaco raccontandovi quello che è successo un'ora fa. Una signora è uscita da una di queste case e ha portato ai volontari della schiacciata con la mortadella. Questo è il popolo del centrodestra. Questo è il popolo che noi vogliamo risvegliare. Vai sul serio. Lo hai detto, hermano. Non si scherza con Jesus. Fuoco alle polveri. Go hell, Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E eccoci qua. Buonasera e benvenuti. Ah, abbiamo una lettura, Radio, scusa. Bomba. Lettura subito in apertura, via. Situato tra Careggi e la collina. Ci sono? Vai, vai. Situato tra Careggi e la collina di Serpiolle, il quartiere di Rifredi ha una storia antica che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano in Pane del XII secolo. Fino alla seconda metà dell'Ottocento il quartiere è rimasto aperta campagna, poi ha subito una profonda trasformazione sociale e urbanistica che in breve tempo ha visto l'insediamento delle principali realtà produttive fiorentine. Sono arrivate industrie come il primo nucleo delle Officine Galileo, la Manetti e Roberts, la Superpila, la Fonderia del Pignone, l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare e altri ancora. Il processo di sviluppo socio-economico del quartiere culminò nel primo dopoguerra, allorché le Officine Galileo decuplicò le proprie maestranze, passando dai 231 operai del 1911 agli oltre 2000 del 1918, per crescere ulteriormente negli anni successivi, fino a raggiungere gli 8.000 addetti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'azienda fu impegnata direttamente nello sforzo bellico. La crescita esponenziale della manodopera riguardò anche le realtà minori, con l'ingresso massiccio delle donne in fabbrica. Già a partire dalla fine del XIX secolo, Rifredi era diventato il fulcro del movimento operaio fiorentino. Nel 1883 era nata la locale società di mutuo soccorso che, sopperendo alle carenze dello stato sociale, fu capace di instaurare un rapporto stretto e duraturo con la nuova classe operaia, in netta contrapposizione con i cattolici, raggruppati attorno alla pieve di Santo Stefano. La nuova sede della SMS, attiva ancora oggi in via Vittorio Emanuele, fu inaugurata il 9 agosto 1914 e nel primo dopoguerra fu assaltata più volte dai fascisti. In un crescendo di atti di violenza, il 6 maggio 1921 fu incendiata e in seguito occupata con la forza dagli uomini di Mussolini, che insediarono al suo interno il gruppo rionale fascista intitolato a Filippo Corridoni. In un periodo di forti contrapposizioni politiche e sociali, Rifredi ospitò anche un'esperienza memorabile che avrebbe visto il movimento operaio e il mondo religioso unirsi in un rapporto destinato a tracciare un solco profondo nell'identità del quartiere e del resto della città. A favorirlo fu un parroco di origine romagnole che prima della guerra divenne vicario della chiesa di Santo Stefano in Pane, Giulio Facibeni. Convintamente antifascista, Don Giulio fu un precursore dell'impegno cristiano rivolto al sociale e divenne l'esempio e il maestro per una generazione di grandi preti, fiorentini e non, da Lorenzo Milani a Ernesto Balducci, da Danilo Cubattoli a Bruno Borghi. Ma è nel secondo dopoguerra che Rifredi diventa l'epicentro delle dure lotte operaie che coinvolsero le Officine Galileo. Nel 1944 i nazisti in fuga avevano fatto saltare gran parte degli edifici e dei macchinari rimasti alla Gali, come gli abitanti erano soliti chiamare la fabbrica metalmeccanica. Il problema della conversione delle attività da militari a civili fu affrontato e risolto in tempi relativamente brevi, con un piano di sviluppo che privilegiava le produzioni civili, dalla strumentazione scientifica ed elettrica alle macchine fotografiche, fino alla produzione di telai per l'industria tessile. Dalla metà degli anni 50 gli operai della Galileo, che in quel momento impiegava circa 3.000 addetti, scendono in piazza a difesa del posto di lavoro e dei diritti acquisiti. La città si schiera al loro fianco, la popolazione raccoglie fondi e aiuti per i dimostranti. Anche l'opera di Don Facibeni li appoggia apertamente. Dopo l'occupazione della fabbrica e i durissimi scontri di piazza, nell'aprile del 1959 la lotta operaia si conclude con poco più di 300 lavoratori licenziati. La direzione ne aveva chiesti oltre un migliaio, molti dei quali sono invalidi o anziani che vengono messi in prepensionamento. Vasco Pratolini, che ambientò e rifredde il suo romanzo La costanza della ragione, così ha raccontato le lotte della Galileo. Le maestranze, minacciate da ulteriori falcidie, avevano occupato la Cali. Vi si erano barricate, finché, come per una pupilla dei suoi occhi, Firenze intera era risorta, sindaco in testa, con proteste e cortei. La polizia dovette togliere l'assedio ai cancelli chiusi di Viale Morgagni e Via Carlobini. Erano confluiti gli interessi elettorali d'ogni partito e quelli dei commercianti di rifredi che sulle famiglie della Gali fondavano la loro fortuna. Ma determinante era stata l'unità delle organizzazioni sindacali e soprattutto la fermezza dei lavoratori asserragliati dentro i capannoni. Anche gli uomini in veste nera di Don Bonifazi, quei preti col calzone di cui Millo parlava, si erano schierati dalla parte dei cristiani. Furono giorni leggendari che formarono un'appendice alla nostra storia. E conclusi con una vittoria, ovviamente condizionata e con un processo cui vennero sottoposti, per uscirne assolti, i più facinorosi degli occupanti, oggi la Gali di Rifredi non esiste più. Nel 1980 è stata trasferita nel nuovo stabilimento di Campi Bisenzio ed è passata sotto il controllo di Finmeccanica, ma all'interno del quartiere la memoria delle lotte operaie degli anni 50 è ancora viva. Da Guida alla Firenze Ribelle di Michelucci, viva! E buonasera a tutti e tutte, questa è Fuoco Polveri, in ritardo dal solito. Più del solito, puntata mai eccezionale, come mai come oggi, ma c'è un buon motivo. Abbiamo, lo diciamo? Sì. Abbiamo qua un gruppo incredibile, fantastici, vi sentirete tra pochissimo, sono gli In Camicia e sono qua nudi per noi, voi non li potete vedere ma noi sì. Questa è la verità. Li potete sentire però. Un'orchestra, e questa è la verità. Cesar e gli In Camicia. Potete sentire, eccoli, il sound degli In Camicia. In sottofondo. Sì. Buonasera, benvenuti. Infatti, con l'altro. Voce sì, allora intanto facciamo che sì, intanto si introduciamo un attimo, esatto, la puntata. Puntata numero 91, quindi siamo sì, veramente tantissimo. Quando si finirà mai con questa grande serie? Forse a 100 e forse a 100 si chiude Baracca, Burattini, ci riferiamo a vita privata sì, e via. Forse sì, forse no. Comunque 91 come l'anno 1991, oramai siamo banali, però è successa una cosa molto molto importante nel 91. C'è stato il primo sbarco di migranti albanesi dall'Albania, era esattamente il 7 marzo del 1991, e sbarcarono, pensate un po', a Brindisi 27.000 persone nel giro di un giorno. Era appena caduto il muro di Berlino da poco, l'URSS era, insomma, si stava disfacendo, c'era una crisi economica fortissima e quindi c'era la necessità anche di andare a cercare fortuna altrove. Non si fermò lì perché qualche mese dopo, era l'8 agosto, che sbarcarono altre 20.000 persone, pensate, su una barca sola. Vi potete guardare le immagini, si trovano sul web, sono allucinanti, cioè, una barca gremita di persone. La risposta fu bella da parte della Puglia, dei pugliesi soprattutto, vennero ospitati dappertutto, nelle case dei comuni cittadini, nei centri sociali, nelle parrocchie, ovunque. Fu un'esperienza anche molto toccante per un po' per tutta Italia. E appunto, il primo sbarco, ne sono succeduti altri, poi i tempi sono cambiati e adesso sì, siamo arrivati quasi a lanciare i siluri sulle barche che portano migranti. Ci siamo quasi. Sì. Ok. Poi, avete sentito? Questo era un po' l'intro per Allegro. Per gli In Camicia, l'avete sentito? Io sono ospiti da noi, suoneranno sabato 6 presso gli spazi della Polveriera, ma oggi sono venuti a presentarsi, hanno un disco che ci hanno già fatto sentire a noi, ma ve lo faremo sentire anche a voi. Fortunelli siamo, sì, abbiamo un po' di anteprime. La puntata è lunga, anzi dovremmo farla abbastanza breve perché le cose sono tante, a partire dai cortei. cortei del fine settimana. Ne abbiamo visto uno sabato, anzi tre sabato, però uno seguito in particolare era quello per contro l'aeroporto a favore del Parco della Piana, partecipatissimo, sì. Bellissimo. Domenica vi è stato invece il corteo a memoria di Orso Tecoscher. Abbiamo contributi e dovremmo avere anche una corrispondenza con un compagno e una compagna che sono in Turchia, dove giusto ieri si sono svolte le elezioni amministrative diciamo. Sì. Diciamo così, sì, poi sì, non so se si chiamano amministrative, esatto, in Turchia, però con risultati che un po' ce li aspettavamo, insomma, comunque con grosse novità. Rubrica di film del giorno, forse rubrica animali, troppo non roba. Non esageriamo. In camicia. Forse. Cosa vuoi degli in camicia? Quello che vogliono loro. Appunto. Tutto. Che volete fare? Cosa volete? Che mettete l'album e lo fate andare. Tutto, ma voi, fino a domani mattina, no, ma non dai. Noi vogliamo sul pezzo, forza. Che pezzo volete? Che io faccio dai, tutte le track. Intanto presentatevi. Abbiamo qui Cesar di fronte a noi. Cesar, ti diamo un microfono. Ciao. No, ma che vergogna. Se non ci vergogniamo noi, non nessuno si può vergognare. Guarda. Bene. Devo farci una domanda a Cesar, no? Ma com'è che hai scoperto in camicia? Quando sono arrivato in Italia ho scoperto che il mio insegnante di italiano in Messico faceva anche musica. E insieme a Simo, un cavallone dragone, sputafuoco, che nemmeno... Oh... Eccoci, ora ti sentiamo bene. Sì, il microfono deve stare davanti alla bocca. Il microfono. Baciare, praticamente. Sì. Puoi pomisciare. Bravo. No, dicevo, Baci. Quando sono arrivato dal Messico, Ciccio, che è il tastierista dell'incamiscia, grande musico, insieme al maestro, il cantante Simone, facevano l'incamiscia e quindi mi sono innamorato. Come non innamorarsi, fra l'altro? Of this incredible sound. Forza. E noi eravamo qui da 10 anni e ad aspettare, in realtà, che... Ad aspettare Cesar. Ad aspettare me. Sì. Era un duo, niente. È come una coppia, una relazione d'amore. È come una relazione d'amore. No, infatti. C'era Simo che gli chiedeva a Ciccio, ma invece Cesar, quando arriva? Invece arriva un messicano e stravolge un po' tutto, capito? Quindi sei il Cesar, è un po' il vostro messia, si può dire? No, il nostro sia. Fateci sentire qualcosa, dai. Live subito? Ma come volete, allora live. Faremo tutta la raddoppio della velocità, visto che abbiamo metà tempo. Bravissimo, giusto. Capito. Bravi. Vogliamo fare un pezzo live? Un pezzo live subito, vai. Vai. Ci andava prima ai bar. Vai. Pronti, questo subito con grande ansia. Secco non lo so. Sentite qua, The Incredible Sound. Alzi nel volume, di cose su re puttà madre. Un saluto a mio fratello, mi sta sentendo. Se sì, ne spa un mandarì. Thank you. una pera. Mandarino, insomma, o Clementino. O Clementoschi o Mandaroschi. Non ci facciamo gabbare, Clementino. Il senso. Non ci fa. Non ti fare gabbare. Sempre mandarino sei. Cioè, nel senso, cambia il nome, ma sempre mandarino rimani. Sei e mandarino rimani, giustamente. A parte, cioè, appunto, quella volta l'ho trovato su di un pero. E allora era una pera. Però, era un innesto. No, no, era una pera proprio. Era una pera. Non so, dovresti provare con una cipolla. Va bene, allora che si fa noi? Se andiamo faceto al serio? No. No, dai. No, no, no, no, resta sul cominciato con la cosa lasciare Baldo, vuoi passare al serio? No, no, no. Posso dire una cosa? Certo, puoi dirle tutte quelle cose. Se parlate delle officine Galileo, no? Sì. Sapete che è un museo d'arte contemporanea, no? Un museo d'arte contemporanea? No, dicelo un po' te. Raccontaci. No, era un museo d'arte, cioè l'hanno fatto tutto, hanno comprato mi sa anche 6-7 opere e poi non è mai stato inaugurato. E poi non è mai stato inaugurato, infatti fu occupato nel 2000, mi pare, e fu fatta costruita la Venere biomeccanica, che era una mega statua. Vero. C'è ancora. C'è ancora, se non sbaglio, dentro, se uno sbircia. E no, questo per far è capire. Testone, è un capoccione gigante, per no? Per far capire a Firenze quanto gli frega l'arte contemporanea, certo. È del quartiere di Rifredi. Questo sì, così una nota. Certo. Allora, il nostro focus su Rifredi era un po' per riconnettersi al corteo di ieri, che sì. Che ha sfilato nelle strade rifredine, che erano le strade di Orso. Il quartiere di Orso ha una storia particolare, perché Rifredi è un quartiere ultra popoloso, è stato un quartiere popolare, poi ora piano piano si è avvicinato all'università e quindi sta cambiando, però sta cambiando anche in dei sensi che non, diciamo, che vanno un po' al di là di quello che vorrebbero i politicanti, perché è stato teatro negli ultimi anni di cose importanti, cose gravi, perché ricordiamo Casseri nel 2011 con l'omicidio di ben due persone per mano di un fascista. E anche questa cosa di Orso ha scosso un po' di tutta la città, un po' di tutta Italia, però un po' di tutta la città, ma in particolare di un quartiere che lo conosceva molto molto molto da vicino. Assolutamente, e un quartiere anche appunto in cambiamento, non soltanto sotto questo punto di vista. Ricordiamo, abbiamo parlato anche delle, per esempio, le passeggiate dell'occupazione di Viale Corsica all'interno del quartiere, che hanno mostrato quali sono i processi economici e urbanistici che stanno interessando proprio quel quartiere, a partire da Piazza Almazia, salire verso Careggi. Sono processi che si va dalla svendita del patrimonio culturale e urbanistico al fatto che non c'è una pista ciclabile. Okay, diciamolo, diciamolo. Diciamolo con manco un metro, raga. Manco un metro di pista ciclabile. Vabbè, questa è la roba tua. Però in generale è un quartiere che si sta molto trasformando. Si sta trasformando. E in cui succedono tante cose, non sempre nella stessa direzione. Esattamente. Questo ci un po' ci introduce. Cosa vogliamo affrontare? La questione del corteo di ieri? Sì, anche prima perché non abbiamo una scaletta, quindi non dobbiamo andare un po' così a decisione. Abbraccio. Il corteo di ieri è stato bello, direi. E il Wombat l'ha seguito. Sì. Quindi abbiamo anche caricato il podcast di tutto il corteo. Ci sono vari interventi. Ci sono stati interventi da parte della comunità curda, della rete toscana per il Kurdistan, da vari compagni dei centri sociali. Un po' tutti erano presenti. Vi erano la famiglia, soprattutto, erano presenti e hanno. C'è stato un toccante discorso di Alessandro, intervento di Alessandro, il padre. Vi erano anche i compagni e la compagna torinesi, italiani, insomma, che comunque hanno combattuto in Siria a fianco dei curdi, erano tutti presenti, da Locatelli, Eddie, Jack, Grasso, e poi veramente tante persone un po' da tutta la Toscana, solidali, persone che sono rimaste molto colpite da quello che di fatto è un partigiano del terzo millennio, sì. Almeno il partigiano italiano del terzo millennio, sì. Non è l'unico, non però è l'unico, sicuramente sono uno... in tanti, ma è quello caduto, è quello caduto, e che, sì. E che quindi ricordiamo e ricorderemo sempre. Il corteo è partito nel pomeriggio da Piazza Leopoldo e è andato verso la fortezza, girando vicino a Piazza Giorgini e seguendo un po' quelle che erano le strade di Orso e della sua famiglia. È arrivato poi alla fortezza, dove ci sono stati tantissimi interventi, anche molto alcuni molto interessanti, altri molto toccanti, altri tutti e due, e così è passato il pomeriggio, diciamo. La partecipazione si stima a qualche migliaio di persone, sì. Fra i 4-5 mila, sì. Persone, sì. C'erano, e molto bello, sì. È stato bello, una bella giornata, c'era il sole, si stava benissimo, è stato veramente, sì. Veramente molto piacevole, c'erano gli amici, e quindi sì, veramente bellissimo. Speriamo che da questo, ecco, che da questo nasca, io penso che qualcosa sia già venuto fuori, ecco, è Orso anche con la sua morte ci sprona a andare un po' oltre, no? A fare sempre, sì. Un passo in più, a essere, io penso, anche un po' radicali nelle scelte. Poi radicali non vuol dire fare quello che ha fatto lui per forza, cioè non vuol dire dover sacrificare, vuol dire tante cose. La vita in un campo di battaglia, seppur con delle ragioni, insomma, con tutta la ragione dalla sua parte. Però ecco, la radicalità poi si può declinare in tanti aspetti della nostra vita senza avere la necessità di andare in Siria. Quindi si spera, almeno io personalmente, sì. Spero che questo possa essere un esempio. Ci vieranno anche tanti bambini, ad esempio ieri, tanti bambini portati dai genitori, proprio perché per, diciamo, le nostre generazioni non lo sanno che cosa è stata la resistenza realmente, anche noi non l'abbiamo vissuta, e quindi stanno di fatto piano piano scomparendo le persone, sì, che hanno vissuto in prima persona, esatto. La resistenza, e quindi magari è anche... dei genitori hanno avuto la possibilità di far toccare anche con mano a chi è nato dopo il 2000 o magari anche dopo il 2005, che cosa vuol dire, sacrificare la propria vita per una causa, sì. Universale, giusta, e quindi io penso che questo sia davvero un punto di partenza, possa essere un punto di partenza per tutta una società, per tutta una comunità. Allarghiamoci a sì, Firenze, sì. Toscana, certo, Italia, Europa. Ma sì, e, anche perché è così, è questo che deve essere fatto. I curdi non sono in assoluta minoranza, sono anche da un punto di vista di potenza bellica, e quindi per resistere, per continuare a portare avanti il loro progetto di confederalismo democratico, hanno sicuramente bisogno di noi, cioè nel senso di noi in quanto potenze, sì, sì. Occidentali, fino a che l'Europa e le altre potenze non si schierano dalla parte giusta e non smettono magari anche di vendere armi agli schieramenti, agli altri, sì. Agli altri, forse allora qualcosa potrà davvero cambiare, se no ecco, sarà sì una resistenza fortissima, appassionata, però insomma la Turchia è uno degli eserciti più forti della NATO, del mondo, quindi, sì, insomma, più potenti del mondo, e sembra continuare sulla direzione che ha preso negli ultimi anni, ecco. Sembra continuare su quella direzione, sì. Fra l'altro parleremo proprio di Turchia, sì. Quest'oggi, perché ieri ci sono state le elezioni, abbiamo accennato prima, con molto confusionari, c'è stato un grossissimo spiegamento di forze nella Turchia, a tutti i seggi, movimenti strani, di fatto c'era stata anche una richiesta di aiuto da parte del partito curdo, del partito di opposizione, mettiamolo, sì. Così, poi era un partito unificato che raccoglieva tutte le opposizioni. Fatto di coalizione. E quindi sì, hanno fatto un appello internazionale per portare in Turchia ai seggi degli osservatori internazionali, tanto era il rischio che, sì. Il tutto si svolgesse nella totale illegalità. E sembra che comunque ci sia stato legalità. Poi magari ce lo facciamo raccontare direttamente, sì, da chi è andato a vedere proprio questo, se riusciamo. Esatto. Allora, io magari si potrebbe intanto mandare l'intervento del compagno di Orso che abbiamo intervistato, è uno degli italiani, uno dei torinesi che si è recato, ormai è tornato, mi sembra lui, si è un po' scambiato con Orso è andato nel 2017, lui stava tornando, li sono scambiati. E fra l'altro i compagni tornati, i cosiddetti foreign fighter, stanno subendo delle, insomma, sì, non so se si può dire una repressione, forse una persecuzione, perché sì, comunque la procura torinese non si è espressa, diciamo, riguardo alla loro vengono questione. Trattati da foreign fighters, nel senso che foreign fighters è un termine, ce lo spiegava anche ieri Cadolo Capelli, che è un termine che viene usato per i combattenti che vanno a combattere con ISIS e che quindi poi quando tornano nei propri paesi vengono considerati foreign fighters e quindi vengono puniti o comunque intorno a questo. Esatto. Sì. Vengono trattati, i combattenti internazionali invece che vanno a supportare le truppe curde sono trattate da foreign fighters e non da solidarietà internazionali e portano aiuto a una popolazione che sì, c'è un po' una falla normativa su questa questione. Però ecco, una falla normativa sicuramente potrebbe essere riempita da delle procure che approcciano all'argomento con un minimo di coscienza, invece questa cosa non succede. No, viene riapplicato delle norme che arrivano direttamente dal codice Rocco, quindi dal codice fascista, dal codice penale fascista, e che quindi ovviamente è molto... È un po' datato e anche molto incentrato su... Ok. Dicevamo, noi vogliamo mandare questo intervento. Sì, lo mandiamo questo intervento del compagno Jack. Sì, forse. Nel frattempo prepariamo la telefonata, così ci mettiamo in connessione con il compagno e la compagna che sono in Turchia. Allora, siamo alla fortezza con Jack, un compagno che è stato a combattere in Siria, ha conosciuto Orso. Un'impressione sulla giornata di oggi? La giornata di oggi è una giornata importante, emozionante, per chi l'ha conosciuto, anche per chi non l'ha conosciuto, vedo che sono raccolti attorno al dolore innegabile della famiglia, centinaia e centinaia di persone che sono sia compagni ma anche amici, persone che hanno voluto essere vicine in questo momento, che secondo me è un momento che ha una valenza doppia, sia di dolore perché un amico non c'è più, ma anche un momento di gioia perché dobbiamo essere consapevoli che Orso, come lo chiamavamo noi, Lorenzo, Walter Kocher è morto facendo esattamente quello che voleva, portando avanti le sue idee con tranquillità, semplicità come l'abbiamo conosciuto, però con altrettanta estrema determinazione e coraggio, quindi c'è una sensazione, un sentimento doppio che si muove, da una parte dolore indubbiamente, ma dall'altra parte gioia. E tu come hai conosciuto Orso e che cosa ti ha lasciato? Orso l'ho conosciuto nel 2017, proprio fisicamente nel mese in cui io cercavo di uscire dopo la mia permanenza in Rojava e lui entrava per la prima volta e quindi ci siamo incontrati questa cosiddetta casa sicura e ci siamo scambiati le nostre opinioni, ci siamo confrontati, gli ho raccontato tutto quello che poteva essere stata la mia esperienza per cercare per lui che fosse più semplice, visto che comunque per un occidentale in ogni caso Medio Oriente non è esattamente dietro l'angolo, c'è una distanza, più che di spazi, di chilometri, una distanza comunque culturale, in ogni caso è un mondo diverso rispetto a quello occidentale e quello che mi ha lasciato è quello che traspare un po' dai suoi scritti, dai suoi video, che la persona era... Non c'è differenza tra quello che diceva nei video e quello che era poi lui come persona con cui potevi vivere, parlare, mangiare tutti i giorni. Una persona semplice, tranquilla, disincantata sicuramente rispetto all'Occidente, volenterosa di vedere una rivoluzione che può capitare nella vita di ciascuno di noi una volta sola, la sua generazione. Comunque questa è una cosa importante. Ecco, e cosa... Questo me lo ricordo, la semplicità, la tranquillità con cui era... sia determinato e coraggioso che accattamente diceva sì, ma io non qua quello che cosa rappresenta e che cosa porterà anche una morte di una persona del genere per un paese occidentale come l'Italia e magari anche nello specifico se riesci, nello specifico di una città come Firenze che vive difficoltà sotto tanti punti di vista un po' comuni a tutta Italia. Ma io penso che Lorenzo, in ogni caso, al di là di quello che volesse fare lui, di fatto ora è un esempio per le persone che sono qua, per le persone che sono state giù, quindi magari hanno percepito un po' più direttamente alcune delle cose che ha vissuto lui, e anche per le persone che non ci sono andate proprio. Da uomo, come l'ha definito suo padre, più che eroe, più che partigiano, comunque uomo con le sue idee che portava dentro il suo cuore nella vita di tutti i giorni. Quindi questo è un esempio di semplicità e di anche dedizione alle proprie idee, alle proprie convinzioni, ecco, che possono arrivare fino anche alle estreme conseguenze. Non è quello che voleva, evidentemente, però voleva comunque portare il suo contributo e difendere il popolo curdo, per cui primariamente era voluto andare in Rojava. Ecco, ma questo contributo può essere portato anche da qua, oppure è necessario per forza andare in Rojava? No, ci mancherebbe, no. Se le persone hanno la possibilità, se vogliono, possono andare là e fare parte, partecipare, dare il loro contributo a una rivoluzione. Il contributo è in ogni caso un contributo che può essere nella parte civile, nella parte militare, nella logistica, negli ospedali. Non è certo necessario dover andare per forza ad abbracciare, impugnarsi un'arma. Questo tipo di discorso non era proprio né di Lorenzo né tantomeno mio. E le persone di qua hanno anche però la responsabilità di portare avanti anche la sua memoria, il suo ricordo, e portare avanti anche le lotte che lui ha vissuto, forse con un sacrificio che evidentemente non è da tutti, però non di meno le persone possono comunque ricordarlo e farlo vivere nel proprio cuore, nella vita di tutti i giorni, nelle lotte, come è giusto che sia, come penso che volesse Lorenzo. Bene, sia te che altri compagni che di ritorno dalla Siria, da Rojava, stanno subendo le conseguenze della repressione e si può dire una vera e propria caccia alle streghe per quello che avete fatto. Tra l'altro c'è stata un'udienza pochi giorni fa a Torino, se ci puoi dare un'impressione su quanto sta succedendo in su questo fronte. Ma io penso che la Procura di Torino alla fine abbia fatto una mossa politica, intanto per cercare di non far parlare, discutere della rivoluzione di Rojava, del fatto che delle persone possono andare al di là dello Stato italiano o delle strutture, delle figure istituzionali, andare a seguire una rivoluzione, a partecipare e anche a combattere contro l'ISIS, cosa che poi di fatto lo Stato italiano non ha fatto. E quindi il tentativo di bloccare politicamente certe persone, perché agli atti di fatto non c'è contestato nessun reato, di fatto la sorveglianza speciale non prevede reato, ma prevede un'ipotesi, il fatto che noi siamo socialmente pericolosi. Agli atti hanno indicato gli incontri pubblici che abbiamo fatto a Bologna, come a Milano, come a Torino. Ci sono dei libri che sono stati scritti, ci sono tutto quello che è il nostro racconto, la nostra esperienza, che non è certo un racconto di militarismo, di avventurismo, di romanticismo, come molto becceramente e vergognosamente alcuni rappresentanti del governo sono riusciti a dire. Quindi loro aspettando alla fine giorni, con tutta una serie di pressioni, comunque c'è stata una campagna mediatica di solidarietà che si è dimostrata in vari ambiti, in varie situazioni, e questa campagna ha avuto una sua eco, tanto che la procura poi si è trovata, penso, in una certa difficoltà. Il procuratore è sceso direttamente in tribunale per spalleggiare il procuratore Pedrotta, per dire che loro non applicavano leggi fasciste, dicendo delle cose che, parlando solo per tecnici legulei, quindi di fatto dicendo delle cose veramente piuttosto ipocrite alla fine di tutto, e alla fine non penso che gli sia stata una manovra che abbia avuto questo grande successo. Poi magari applicheranno comunque la sorveglianza speciale, ma di fatto hanno ottenuto l'effetto opposto, di far parlare la rivoluzione, far parlare dei volontari che sono stati negli APG, di far parlare ancora di più di Lorenzo, di chi ha poi sacrificato la propria vita per la rivoluzione dei popoli di Rojava. Bene, grazie. Allora noi ti ringraziamo per questo contributo e in bocca al lupo per la vita. Grazie a voi. Questo era Jack, da sì, Torino. Ma noi abbiamo notizie calde, perché ora chiamiamo i compagni, il compagno e la compagna, che sono partiti già da qualche giorno. Non abbiamo avuto notizie da loro, le avremo ora, quindi ci sarà anche un po' di tenerezza.

E io da grande voglio fare la vecchia, così ti urlavo dietro con la mare in la bocca, e ti sputavo in faccia, e ti sputavo in faccia, e ti sputavo in faccia, la dentiera sulla faccia. Ma io da grande voglio fare la vecchia, vestirmi di un vestito solo, fare i solitari a letto, farmi la bocca con Rossetto o Antonello. Se ti inseguo col martello, Antonello, Antonello, Antonello. E io da grande voglio fare la vecchia, così ti urlo in faccia con i peli della faccia. E da grande voglio fare la vecchia, a buttarmi i peli della barba. Per baciare te, per baciare te, per baciare te, oh fammi sentire vera, mordimi la dentiera. Ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone, ti buco il pallone. E insomma, vabbè, clamoroso tutto ciò, clamoroso. Bellissimi. Vero. Not lago. Dopo aver parlato di Erdogan, sì, ci pettiniamo un po', ci pettiniamo i peli dei nei. Esatto. Non si autocommentano gli incamici, sono rimasti zitti di quelle. No, perché? Sono rimasti senza parole. Dalla nostra. Sono auto rimasti. Rimaniamo sempre senza, sì, stupiti, senza parole, dopo ci riascoltiamo, perché davvero. Poi questo è il pezzo di filosofia politica degli incamici. Diciamo la suite, per cui ci sarebbe proprio tanto da raccontare. Io dico solo un aspetto musicale, che a parte che è bellissimo, ma finisce, i pezzi di incamici finiscono in due modi: o con sol do, ma questo è un segreto, non lo si dice, o con una cureggia, e questo è di quelli che finisce con una cureggia. È fatto bene. Ma una cureggia è intonata, cioè, in che nota? Cioè, ovviamente in do. Sempre. Quindi finisce in do. Cioè si bemolle per la tromba. Ah, ok, appunto. Insomma, ma dai, ma un po' di svelatevi un pochino ai microfoni di Radio Wombat. Sai, chi siete? Cioè, da dove venite? Cosa fate nella vita? O non lo so. No, quello non si dice cosa fa nella vita. Okay. A parte suonare in camicia. Cosa vorreste, fare nella vita, allora? Facciamo così. Bella, cazzo, bella vecchia. Lui la vecchia, io vorrei suonare in camicia nei circhi tutto il mondo, e vorrei ci chiamassimo Moira Orfei e gli in camicia. Allora, beh, facciamo un appello a Moira Orfei. Moira Orfei, allora, se stai sentendo Focal Polveri, o magari puoi sentirtela in podcast tranquillamente, sì, vai su www.wombat.blog. Che è indubbiamente in paradiso, Moira Orfei. E perché non si arrivano in paradiso, scusate? Sì, poi bisogna vedere se la trovi in paradiso. Moira Orfei è la figlia di Vanna Marchi. Beh, comunque sì, Moira Orfei è morta, ma i circo Orfei è sempre tra coglioni, cioè, quindi sì, non ci sbagliamo. Le AM arrivano anche. Le AM arrivano, vanno nell'etere, quindi ciao. Quindi, ovunque sia il paradiso. Quindi appello onde, a Moira Orfei, diceva. Arrivano solo in paradiso. Se senti, là. Se senti questo podcast, chiama per favore l'incamicia. Puoi contattarci su postawombat@siberia.net. Esatto. Ci richiedi il contatto dell'incamicia, noi te lo diamo e poi te li mandiamo direttamente. E poi fai circo. Oppure ti riportiamo. E poi abbiamo il piano C, che invece andare a fare i mariachi in Messico, no? I mariachi sarebbero? Un piano. I mariachi sono quelli che sono le cose romane. I neomedrodici messicani. Praticamente. quelli con i cappelloni che sono le cose romantiche in Messico, tromba. I melodici. I neomelodici messicani. Sì, dai, sì. Bello. Queste sono un po' le nostre aspirazioni, oltre ovviamente a richiamare alla radicalità dell'espressione artistica. Ciao a tutti. Ciao. Vero. Ciao. Ecco ciao. Che si sintetizza con una cureggia a fine pezzo. Ma io volevo essere un cavallo. La cureggia chiaramente a fine pezzo è proprio la merda d'artista, cioè proprio chi vuole fare un fiore e caccio sopra. Comunque è tutto nato in una stanzina grazie a un quaderno di poesie del cantante Simone. No, è tutto nato grazie a una balalaica. È una balalaica. La sua triangolarità ci ha come illuminato. Ci ha ispirato, diciamo, proprio la legnosità e la triangolarità della balalaica, il suono stridente, compulsivo ma penetrante. E l'origine russa del nonno, quindi c'è anche l'aspetto emotivo, ha creato questa. Cioè, non è che suoniamo, noi aspettiamo che la balalaica ci comunichi qual è il prossimo pezzo che inventeremo. Messia, noi siamo dei veicoli. A little moment for the international spirituale, no? So you said the balalaica is the focus of the Inkamisha, all the Inkamisha sound comes from balalaica. Yes, because the Inkamisha like triangles. Ah, ok. Anche Dio is like a triangle, okay. Hey. Vedi che è vero che voi siete una sorta di messia scesi sulla terra per... Non lo vogliono dire, forse no. Non lo sanno, sì, ma questo lo scoprirete lo quando faremo il film dell'Inkamisha. Ecco, lo attendiamo, sta in produzione? L'Inka film. Intanto abbiamo cominciato con un video che è un po' un film, perché se guardate Cicciarrita, boom boom boom, è tutto un po' un film tra il Kusturica è venuto fuori bene e scusate, ma siete un solo voi? Video reggaeton venuto male. Malissimo. quindi... Ma siete voi tre i componenti di Inkamisha? Secondo me no. Musicalmente siete voi, esatto. Diciamo, siamo noi, poi abbiamo anche Carmine, che è la balletta, che la balletta. Da poco, da qualche live si sta... sta esibendo la sua arte. Balletta abbiamo una serie di stagisti, Vassili. Uno stagista al violino, uno stagista al trombone abbiano avuto. Uno alla gran cassa. Alle barzellette. Una volta abbiamo avuto anche il barzellettaio, come si dice. Ma ce l'avete uno sbandieratore? Ma chi era? Aspetta. Spontaneo. Cioè, il barzellettiere, ma è un personaggio il barzellettiere, perché sì forse penso che non lo, ma quello che si fa chiamare il barzellettiere, non lo so, è uno che non so come si fa, che ha deciso che doveva venire a raccontare le barzellette durante il nostro concerto. Ma mi sa che ho capito, beh, io vi suggerisco anche uno sbandieratore ufficiale per il Inkamisha. Non si può dire poi mi sa il nome, non lo diciamo, è il barzellettiere, che chiediamo di andare alla polveriera la prossima volta che suoniamo, cioè sabato prossimo. Sì, ecco, fra l'altro sì, due parole riguardo a sabato prossimo, che è un po'... Allora, due parole sono state scritte già su tutti i cartelloni che trovate nella città e... Quindi non rompere il cazzo, è stata un'idea proprio per sostenere per la polveriera. Abbiamo detto regaliamo questo momento di nostra fama alla resistenza di uno spazio che se ci fa suonare già questo dimostra l'importanza che resista, ecco. Fra l'altro, sì. Si è capito, si è intuito un senso, diciamo, mettiamolo così, ma a che ora suonate, fra l'altro, perché diciamolo. Questo lo decidiamo mica noi. No, chi lo decide? Lo decide. Però la polveriera. Diciamo 9:30, dai. 9:30, dai, sì. Un orario verosimile. E che succede proprio? Dopo cena, per chi cena. Per chi cena dopo cena, per chi non cena invece prima, uguale, cena, prima, durante, dopo, uguale. Dai, ma senti, ma ci sono lanzate? Domande piccanti, domande piccanti, sennò si fa un live di 30 secondi. Fateci un live intanto di 30 secondi e noi pensiamo alle domande piccanti. Però io devo suonare la batteria, aspetta. Riporti. Che cosa ci suonate? È il testo, lo riconoscete subito. È un testo molto profondo anche questo. Canzone femminista degli Inkamisha. Ha ha ha! questa finiva il soldò. Ah, finiva okay. Il soldò, è stata più veloce di 30 secondi forse. Sì. Cioè, mentre eravamo in ritardo. Penso che no, vabbè, ma gli artisti non si può mettere in fretta gli artisti. Fondamentalmente così, ci eravamo rotti il cazzo che si ascoltasse soltanto roba turca e cose. Figo a Firenze. Colombia, e quindi noi abbiamo fatto quello che è diametralmente opposto. Vero. Questo era 15 anni fa, dico, come origine. Okay. Si ritorna all'origine. Ma permane questa cosa. Quindi poi. Ma è vero che siete appassionati di musica brutta? Silenzio, la musica è brutta per definizione, cioè nel senso così, sì, vero? Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo così. Su questa cosa. Okay. Troverai sempre qualcuno che ti dice: ma che schifo sta roba! Ma che schifo i Pink Floyd, che schifo la musica classica. Quindi, per qualcuno quando sarà sempre brutta. Quindi a questo punto facciamo la brutta. Cioè, e quindi quando uno vi dice che schifo gli in camicia, voi cosa rispondete? Finalmente qualcuno che ha capito. I primi concerti, i primi concerti andavano via il 97 su 100, però 97% su 8 persone andavano via in 7 e quello che rimaneva e dicevamo bene, cioè abbiamo suonato per grazie. Te. Se vuoi comprare un disco. Ora invece siamo diventati pop. Ora ormai basta, suoniamo con le basi, facciamo finta. Dai, ma una canzone di 30 secondi? Facene un'altra. Dai, vabbè, un'altra. Si fa questa, secondo me è questa. Ah, questa. Io ho bisogno del testo. Facciamo una cover. Una cover. Facciamo una cover che mi sa direttamente che proprio il testo tratto da. Qui sono arrivati i messaggi, però. Questo suono che sentite, dobbiamo dirlo, è del nostro strumento favorito dopo la balalaica, che è la tastierina Casio. Casio e quindi il triangolo più il Casio fa in camicia praticamente. Mettiamo stile 89 così, okay. Se avete una Casio a casa mettete 89 come stile e, si chiama Beat Bank. Esatto. Vai. Okay. Ma siamo? Ci siamo? Via. È una cover per chi la riconosce, per chi non la riconosce è una canzone nostra. E americano. Non ti sopporto, non ti sopporto proprio. Prima sorridi, poi sputi in terra. Tu chiedi pace, poi cerchi la guerra. Vattene via, americano merda. Americano, americano merda. Americano, americano merda. Questo governo che ti ha ospitato, questo governo, governo americano. Vattene via, tu sei la mafia, tu sei la polizia. Come possiamo mandarti via in uno stato a base di anarchia? Soldò. Soldò. Anche questa. E tenerceli e farci fare le basi sempre. Ma sì. Cosa fate voi lunedì pomeriggio? Le basi. Le basi? Sì. Ah, vedi? Dove le fate le basi? Noi? A fuoco alle polveri? Di solito a casa, però ora potremmo cambiare. E venire a fuoco alle polveri. A fuoco alle polveri. Esatto. E volevo dire una cosa su questa canzone, perché si intitola Americano, no? E è di una band, come tutti sanno, i Trimad, no? Ricordate l'occupazione, la mandavano. Ma perché si chiama americano e non americano? E l'ho capito cantandola, perché praticamente da fiorentino è impossibile cantare americano, e quindi è per questo che è americano. La spiro. E questo volevo fare questa nota di cultura, no? C'è anche chi se la prende normalmente per questa canzone. Sì, si offendono tutti per quello che suoniamo. Mamma mia, e quanto sono per malosi. Mamma mia, si fa una cosa, una canzone che parla di pompini e soffendo. Fa una canzone che parlano di fica e soffendo. Come e se dai, sessisti. Sì, no, non se ne esce, no, però vabbè. Non si può più dire nulla in questi tempi, eh. No, sono tutti offensivi, cioè, sono tutti, tutti estremamente offensivi. E insomma, dai, bene, raga. Allora ci sentiamo per le basi, più o meno tutti i lunedì a questo punto. Sì, sì. Voi rimanete qua con noi? Noi abbiamo da fare una rubrica, si parla di cinema. Il cinema. No, lanceremo cinema. L'ultima canzone poi degli, degli In Camicia, cioè, la lanciamo subito, facciamo subito o dopo in chiusura? Subito, in chiusura. In chiusura. Ora. E allora andiamo le due, una ora, allora, una ora. Decidiamo noi. Giusto. Canzone romantica, decidete voi. Decidiamo noi che decidete voi. Boh, Ganzo, ok, va bene. Okay. Decidiamo noi. Vogliamo una canzone romantica, sì. Allora che numero è? La numero 4, perché c'è in ordine. C'è in ordine, Incredibile stanno in camicia. Cicerita bum bum bum. Mandarino e poi mi sembra proprio Greta. Scusate, abbiamo invece prima abbiamo a sentito Antonio, canzone, com'era? Quella di prima era Antonello. Al l'unico grande Antonello italiano, cioè, esatto, non c'è bisogno di dire. Ah, 5-5, questa invece non la faremo come quella brutta persona di Zingaretti, che la dedichiamo a quella Greta lì, anche perché quella Greta lì, quella che ora è famosa, è stata chiamata così perché grazie. Noi abbiamo certo, scritto una canzone, è certo, è certo, è un plagio praticamente. Sì, è arrivata anche su in Norvegia e in Svezia. Ma pensa te, cioè, se arriva anche a quel nostro pezzo romantico, di... grazie. Grazie a voi. L'applauso lo volete fare prima? No, sì, dopo. Anche prima, dai. Bravi. Allora si va con vai, Greta. Vai, dai, vai, Greta. Vai, vai, Sassi? No, spa. Quella dopo, no, quella dopo. Sei bella, sei bella come io, una Madonna, pittata sui rimorchi dei cani. Greta, Greta, sei bella. Bella pure e abbastanza effeminata. La tua delicatezza mi ricorda di certi stopper degli anni 60 oppure 90 o 91 tipo A. Greta, Greta, come sei bella. Sei bella come io, una Madonna che piange sangue. Greta, Greta, sei bella. Mi ricorda alla mannaia, la tua simpatia ricorda scherzi belli tipo un sasso da. Yeah. macellaio con la gonna. Greta, tu sei all'antica. Greta, tu sei. Questo ci dà l'assist sì, per andare a parlare di cinema. Sì, veloce veloce, però no, gli manca... qui non c'è microfono, in cuffia, un disastro. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Canta, sei più bravo, il mio regista. Eh? Sei più bravo a cantare. Canta. Cosa? Sentite un sacco di rumori, di robe che si spostano. E alla regia che si sta. Si canta per coprirli? Preparando, si muove. E siamo storditi dagli in camicia. Davvero, emozione, non sapevo che c'è. Surprise! Surprise! Cioè, svolta della giornata. Va bene. Allora, vi avverto prima, oggi veramente sono in super confusione, quindi sbaglierò tutti gli orari, dovrei controllare, cioè oggi è proprio lunedì. Va bene, allora, partirei come al solito col Cinema Teatro della Compagnia, ma c'è un perché. Perché questa settimana ospita il Middle East Now Festival. Comincia domani, nella sua 10ª edizione, quindi insomma eventone. Allora, niente, il Middle East Festival propone un sacco di roba molto bella tutta la settimana in vari orari, come fanno sempre ora al Cinema Teatro Compagnia, spalmano bene o male insomma la programmazione durante tutto il giorno, tutti i giorni. Ora magari vi darò un paio, giusto un paio, perché è stato veramente difficile scegliere qualcosa in particolare perché c'è tantissima roba. Però diciamo che il Festival sul Medio Oriente contemporaneo, attraverso cinema, arte, musica, cibo, dibattiti, teatro, lifestyle, che non so che parola sia, orribile, ma vabbè, è stata appunto così, appunto è arrivato fino alla sua 10ª edizione. Chiaramente la situazione del Middle East, appunto del Medio Oriente, in questo momento è molto diversa da quella, diciamo molto diversa, no, ma insomma un po' diversa da quella di 10 anni fa, quindi anche la produzione cinematografica è cambiata ovviamente. Si tratta di paesi che spesso e volentieri attraversano guerre civili, che insomma addirittura paesi che 10 anni fa esistevano ora praticamente quasi non esistono più, ridotti in macerie. Comunque insomma si tratta di una di una scelta di registi e di film che provengono appunto da vari paesi del Medio Oriente, tra cui la Siria, l'Iran, l'Iraq, insomma vabbè, una scelta varia. In particolare quest'anno il festival fa un omaggio a Ash, non lo dirò mai bene, comunque Ashar Faradi, che è appunto questo grande regista iraniano, che è uno degli autori più apprezzati adesso del panorama mondiale, ma in realtà già protagonista a Firenze in occasione della prima edizione del Middle East Now nel 2010, quando ancora non era molto conosciuto. Poi vinse l'Orso d'Argento a Berlino nel 2009 come miglior regista con il film About Ellie, e quindi insomma con film poi con altri film insomma ha cresciuto sempre più il suo successo, con una separazione che è il film per cui è maggiormente conosciuto probabilmente. Vince l'Oscar addirittura per il miglior film straniero riconosciuto, direi, e il Golden Globe, Orso d'Oro, David Di Donatello, il BAFTA, insomma un sacco di riconoscimenti per questo regista, a cui questo festival in particolare tra gli altri dedica spazio quest'anno. Il 2017 poi regala al regista un altro Oscar per miglior film straniero con Il Cliente. Quindi, boh, se anche gli americani lo amano, non lo so, allora, forse bisogna farsi le domande, non lo so, boh, che dici? Un po' strano. Vabbè, un po' strano, però molto amato. Io non ho visto tutto, ho visto qualche film e devo dire che effettivamente, insomma, sono molto belli. Lui è iraniano, però. Quindi diciamo che il festival così lo presenterà, verrà proprio lui, il regista terrà alla compagnia un'esclusiva masterclass dal 6 aprile alle ore 11, biglietti in prevendita per chi fosse interessato a seguire, diciamo, una masterclass con lui, ecco, perché magari gli interessa questo. Trovate ovviamente tutto su www.cinemalacompagnia.it per info più specifiche. Quante marchette? Niente. T'ho sentito. Oggi però prosegue, solo per oggi, cioè diciamo il lunedì ancora non è cominciato il Middle East, è cominciato domani, prosegue il ciclo su Tarantino con Kill Bill volume 1 alle ore 21. Per chi volesse rivedere, non so se ci sono qualcuno ha vissuto sotto i sassi negli ultimi 20 anni e non ha visto Kill Bill, però boh, magari vederlo sullo schermo grande, non lo so, questo grande schermo per chi può essere buono. Io ora dirò una cosa molto impopolare, però so che Tarantino voi mi amate lo stesso. Avevo già finito la storia d'amore con Tarantino quando è uscito Kill Bill, nel senso non lo amavo più così tanto. No, forse Kill Bill è un po' l'ultimo che io ho amato. Io l'ho Scheletto, tanto. Quindi mi piaceva. Io sono più il 2 mi piace tantissimo, l'1 era un è po' più bello il 2, sì, è vero. Beh, devo dire che è comunque un bel film, chiaramente, non è che si parla di... Però insomma ero già un po' in crisi con Tarantino, adesso ho sto problema con Tarantino, cosa se ne parlerà. Però devo dire che paradossalmente invece poi è uno di quei film di Tarantino che mi è ricapitato di vedere di più, perché l'hanno anche dato tanto, insomma l'hanno dato e ridato. Come sempre figure nel film ci sono secondo me i personaggi più interessanti sono quelli poi più camei, insomma ovviamente Wolf, per non dire Daryl Hannah, che fa una delle, insomma, delle protagoniste e coprotagoniste, esatto. E quindi insomma il film è costellato appunto da personaggi secondari che però sono poi i più carini, più interessanti, e quindi merita sempre rivederlo. Niente, va bene, insomma non starei a spendere altro su Kill Bill, l'abbiamo visto, rivisto tutti, abbastanza. Direi abbastanza. Da domani, come vi dicevo, appunto Middle East in 10ª edizione, in particolare ora sono, insomma, se ne vanno i musicisti, ma in realtà martedì 2 c'è un evento molto interessante all'interno del Middle East Festival, si chiama Love and Revenge Live, che è praticamente una performance, special live performance. È una cosa molto particolare perché non è solo una proiezione appunto classica di film, ma è un live di un duo libanese formato dal musicista e cantante hip hop Rayes Beck e dall'artista visiva La Mirza. Presentano il concerto visivo che mixa e unisce grandi successi della musica araba assieme al film culto dell'età dell'oro del cinema egiziano e arabo, ai film culto dell'età dell'oro del cinema egiziano e arabo dagli anni 40 a oggi. Quindi molto carino, alle ore 21, Middle East Festival, Love and Revenge, Special Live Performance, questo domani, martedì 2. Per chi fosse interessato a seguire un'altra chicca, sempre del Middle East, è un film del 2018, si chiama Kabul City in the Wind, ed è un film prodotto in Afghanistan e con la coproduzione dei Paesi Bassi, in versione originale, in persiano, con i sottotitoli, in inglese e in italiano. No, in inglese e in italiano. Ginocchio sui ceci, con i sottotitoli. È una storia molto bella di due fratelli che crescono su una collina fuori Kabul, in cui ovviamente la violenza è diventata ormai parte della loro innocenza. Quando il padre è costretto a partire per l'Iran per questione di sicurezza, finisce l'infanzia e uno dei due fratelli appunto è costretto a diventare il capo di famiglia. E, insomma, e da qui poi prosegue, anche questo molto molto premiato, leggevo appunto il vincitore del premio speciale della giuria come miglior opera prima al Festival di Amsterdam. Insomma, vabbè, questo è martedì, domani alle ore a seguire appunto della performance, quindi sarà alle 10:30 immagino. Lunga giornata domani, anteprima alla presenza del regista, quindi per chi fosse interessato, ecco, l'interessante di questo festival è che porta molti registi appunto del Medio Oriente che purtroppo anche chi ama il cinema sono spesso sconosciuti o quasi, o comunque è difficile incontrarli e questo è un po' la cosa interessante. Per tutto il resto del programma del festival, che vi ripeto comincia domani e ha veramente un sacco di presenze e una programmazione veramente interessante, vi rimando al sito cinemalacompagnia.it in cui trovate tutte le informazioni. Ok. E poi? Poi al Cinema Spazio 1, ancora per oggi, scusate ho perso l'appunto come al solito, ecco. Ancora per oggi, cioè per oggi e domani, presenta un film che a me interessa molto perché è dello stesso regista che aveva fatto Lasciami Entrare. Te lo ricordi? Lasciami Entrare, è molto bello quello sui bambini vampiri. Bambino vampiro, che ora vi dico bello. Anche il nome, scandalosa oggi. Molto bello, è stato fatto un remake americano non troppo bello, infatti. Lo stesso regista, di cui adesso vi dirò il nome appena lo ritrovo, perché non me lo ricordo. Norway, il film si chiama Border, questo nuovo film, ed è particolarmente interessante perché, come sempre in questo regista, c'è una piccola, diciamo che i film sono realistici, una piccola alterazione alla realtà che poi porta però un po' sul fantasy, anche a me molto, e come al solito io sono d'accordo con lei. Qui c'è una creatura, diciamo una creatura strana, non umana, chiamiamola così, che però vive nella realtà così di sud nostra, lavora in un aeroporto ed è, siccome ha degli speciali poteri, è particolarmente adatta a individuare la paura, l'odore della paura, l'odore e quindi fa il controllo, bellissimo questa cosa, no? Quindi anche c'è tutta questa metafora sull'immigrazione, sul diverso. Se non che riesce a trovare un altro della sua specie, un altro essere della sua specie. Che è un terrorista. Non lo so, perché questo ancora non l'ho visto, non lo dice. E poi non volevo spoilerare troppo, però... No, lo trovo a caso. Non lo so questo, non so come lo incontra, però lo incontra. E da lì appunto comincia la storia del film, che è appunto così come sempre in questo regista, forse un po' una storia d'amore, un po' no, una storia di diversità sicuramente. E lo consiglio, lo consiglissimo, ed è oggi, per gli orari vi rimando al sito perché è in più orari, oggi e anche domani. Border. Allora, domani invece continua, come tutti i martedì, il Festival del Cinema Spagnolo allo Spazio 1. Avevamo già annunciato che è diviso appunto, come vi dicevamo, per aree. Questo martedì 2 aprile, Spagna Rurale, ecco. Ora, hanno cambiato il sito, non so perché, non mi chiedete perché, però hanno cambiato il sito e non ci fanno più vedere le schede, in particolare le schede di ogni film nuovo. Non so perché hanno fatto questo, non sono riuscita a trovare le schede di questi due film, però vi posso dire ovviamente i titoli. Il primo è El Olivo, quindi credo L'Olivo, io non sono molto forte in spagnolo, però. Ore 16, ore 21 e 30 di Isar Bollain. E sono tutte storie appunto di, questo un po' per i nostri amici mondeggini, sono storie della Spagna rurale, quindi credo comunque legate al tema della terra, del ritorno alla terra, A seguire il suono del Celer de Can Roja, scusate veramente, di Franca Leu, alle ore 17.50 e 19.40. Anche questa è una storia legata appunto alla ruralità nella Spagna d'oggi, al ritorno alla terra. Mi dispiace, non sono riuscita a trovarli questi film, che siccome non sono editi, non sono mai usciti in Italia, è difficile trovare informazioni sul sito del cinema. Non so come mai hanno levato questo sistema del pannello, invece era interessante. Però insomma, se siete interessati, ci sono i trailer magari da vedere sul sito. Poi, nel senso, sì, è chiaro. Via, esatto. Poi, per domani rimane sempre anche il documentario su Freddie Mercury, perché ancora non l'avessi visto, non il film, ma il documentario che sta girando allo Spazio 1 già da un po'. Bene, al Cinema Teatro di Castello uguale, hanno fatto questa simpatia di cambiare il sito, non so come mai, non so chi glielo fa. C'era grande momento di cambiamento, però funziona tutto peggio come sempre, non so come mai quando si cambia. E non si riesce a vedere bene tutta la programmazione della settimana, è andato un po' in panne, però vi posso dire che per chi non l'avesse ancora visto, stasera alle 21 al Cinema di Castello c'è di nuovo The Mule di Clint Eastwood. Si era parlato perché è un po' che è uscito. Bene, per chi fosse interessato. Invece al Cinema Odeon prosegue ovviamente la programmazione in lingua originale. come sempre. Questa settimana, cioè, allora, dal 28 marcio al 7 aprile, quindi continua ancora un po', c'è sempre in programmazione Dumbo, il nuovo di, Io ho visto bambini scappare. Ho visto Dumbo. Gente scappare. Ho visto gente scappare, bambini, non butta benissimo. Famiglie con bambini andare via prima della fine. Sì, io non ho letto, succede cose brutte, mi sa. Le recensioni non sono un granché, addirittura ho letto Barton non riesce a, riprodurre, ha perso il gusto del freak show, e quindi tutti si aspettavano un circo molto freak, molto cupo, e invece non è riuscito, un po' forse perché è Disney, un po' perché boh, però non pare che non sia riuscito a trasportare il grande outsider, non outsider non più da tanto, insomma, ormai purtroppo. E va bene, quindi non lo so, per chi però lo vuole vedere, lo vuole vedere in lingua originale, magari merita, e lo può Dumbo vedere. Dumbo ha fatto una bella recitazione, e appunto, di sicuro, come si diceva. Ma tu sei ormai riciclato da settimana a settimana, siamo veramente raschiamo il barile. Va bene. Però invece dall'8 aprile al 13 l'Odeon presenta in lingua originale Peter Law, il film Peter che avevamo di... L'ho veduto. L'hai veduto? L'ho veduto. Allora scusa, ma come è in lingua originale? All'Odeon lo danno tra quelli in lingua meno originale male. Perché il doppiaggio di quel film fa schifo, come quasi sempre ormai. Schifo, i film inglesi, ragazzi, vietato vederli in italiano in generale, perché non ha veramente senso, perché gli attori comunque recitano, hanno una recitazione molto, cioè quelli americani li potete vedere anche in italiano spesso, ma quelli inglesi veramente vietato. Sono sì, particolari. Tra l'altro uno dei protagonisti che è un attore bravissimo, Greg Kinnear, cioè questa voce bellissima in inglese, si perde totalmente ovviamente. Però ti è piaciuto? Sì, è un bello un polpettone, due ore e mezzo, come un sempre, po' piantato, chiacchierano un sacco, anche di cose molto interessanti. Lo so, lui c'ha questa cosa, mi si blocca. Qualcosa, si blocca, esatto. Si blocca nel punto topico e verso la fine ma del film. Ma lì è così. Ti aspetti per tutto il film. Ti aspetti poi a bestia e poi... E poi si blocca e... fine. Ha. Lui ce l'ha sta cosa un po', lo fa un po' sterrore a volte, però vale la pena, costumi, sì, fotografia, no, bello, incredibile, costumi, bella fotografia. La storia, si diceva appunto un episodio storico più che altro sconosciuto ai più, sì, insomma. Esatto. Una grande rivolta popolare dopo la vittoria inglese di Waterloo. Sì, per chi non ci avesse sentito l'altra settimana. Operai in sciopero. Sì, sì, una rivolta nell'Inghilterra del 1818, non vorrei sbagliare. Comunque poco dopo la vittoria di Waterloo, insomma, una rivolta appunto causata dalle situazioni di estrema povertà in cui versava l'Inghilterra, che nonostante avesse vinto la guerra, però appunto, come dicevamo, era rimasta in ginocchio chiaramente, e insomma l'esercito reprime questa rivolta in maniera veramente sanguinosa. Quando fecero in diretta durante la manifestazione, fra l'altro, il Riot Act, che era l'atto che scrissero e depositarono proprio mentre c'era la manifestazione, per dare potere alla Guardia Nazionale di andare lì e apposta sul momento, la legge speciale. Sì, sì, sì, cioè, figura se si vergognano gli inglesi. No, infatti, cioè, vabbè, lasciamo aperte, non partiamo sugli inglesi, se no non si finisce più. Però ecco, per chi lo volesse vedere, come diceva lui, vedetelo a questo punto in versione originale dall'8 al 13 aprile all'Odeon. Vi rimando chiaramente per gli orari al sito del cinema Odeon, e come sempre ricordatevi anche di richiamarli, di confermare, perché sono un po' sconvolti all'Odeon. Bene, lei ha un film della settimana. Sì, ho il film della settimana. Bene, film della sono settimana, molto contenta, perché io ce l'avevo, ma il mio si fa la prossima. Allora. Sì, scusami. No, ma che? Vada. Una volta per uno. Certo, non fa male a nessuno. E si ricollega al film di due settimane fa, perché come provenienza, perché è sempre una roba giapponese, stavolta però è d'animazione. Bravo. Di un tizio, un bel tizio che si chiamava, perché è morto nel 2010, Satoshi Kon, che ai più spesso non è molto conosciuto, però ha collaborato, è diventato molto amico e collaboratore di Otomo, che è quello di Akira, per intendersi, e che ha fatto nella sua carriera, ha fatto diversi lungometraggi, diversi manga. Il consiglio della settimana è uno dei suoi, il terzultimo film mi pare suo, prima di Paprika, che è un altro film molto bello, che è Tokyo Godfathers, che è ispirato a un libro inglese che ha lo stesso titolo, però molto vagamente ispirato, e racconta la storia di tre barboni con una diversa storia alle spalle, ovviamente. Una dei tre è un trans, un personaggio bellissimo. Sì, stupendo. Che gli parte stupendo. La voglia di essere madre, è una cosa, è veramente bello. E niente, appunto, parla di questi tre barboni che si ritrovano a durante la notte di Natale, trovano un neonato abbandonato e si mettono, cercano di capire come fare a riportarlo alla famiglia e cose del genere. È molto bello perché è una fiaba per adulti, fatto molto bene. Lui, il regista, si è formato come pittore e poi ha curato, ha fatto diverse animazioni. E niente, è consigliatissimo, è molto, è un film un po', forse un po' invernale, perché appunto è ambientato durante il Natale. È bello da vedere, boh, la sera con calma sotto la copertina, è molto bello. Molto... Mi piace questa, con l'ambient. Sì, sì, sì, sì, sì. Con l'ambient, con le lucine soffuse, ve lo guardate, è molto tenero, molto bello. I film hanno le stagioni, molto giusto. Anche duro, perché appunto parlo di tre barboni. Ora, è ambientazione contemporanea nel Giappone, che si sa, insomma, lo stacanovismo, e se sei un barbone in Giappone è colpa tua di base, se te sì. Che sei lo sbaglio. Certo. E niente, è consigliatissimo. Quasi ovunque, ma lì in particolare, sì. Consigliatissimo, Tokyo Godfather del 2003 di Satoshi Kon. Molto bene, buono, sì, bravo, perché ti sei legato appunto a questo filo che, così, che stiamo seguendo per i consigli dei film, no? La famiglia alternativa, sì. Comunque insomma il concetto di alterità che in questo lungometraggio animato c'è. Anche io l'ho amato molto, devo dire. Non, così insomma anche lo stile proprio mi piace, lo stile pittorico suo del disegno. È veramente una chicca, vedetelo, sì, se non l'avete visto. Chicchetta. Vedevatelo. Vedevatelo, scoprivatelo, riscoprivatelo, lo trovate, sì, anche in streaming, sui siti. DVD, ma tanto è morto, quindi insomma, a un certo punto, no? Però, bene, sì, ecco, questo era il film, il consiglio della settimana. Vi invito ovviamente anche a... così appunto ad andare a vedere, a dare andare al cinema sempre, cioè non mi venite a dire ah no mi manca soldi per andare al cinema, bevete una birra in meno, veramente non vi si può vedere, costa quanto una birra. Cioè veramente con tutto il bene, però i film vanno visti al cinema. E questo Middle East appunto nella sua 10ª edizione al Teatro della Compagnia, vi invito a così a seguirlo, a vedere, perché è raro, appunto noi siamo un po' sempre eurocentrici, americacentrici col cinema, purtroppo, lo dico anche ai noi, cioè come autocritica, perché è difficile poi conoscere qualcosa che non sia, quindi bisogna sempre fare un po' lo sforzo di no, veramente di vedere altro che non sia veramente, anche perché voglio dire il cinema nasce anche proprio per questo, insomma, per darci la possibilità di vedere mondi altri, paesi altri che non scusate, oggi è veramente la sagra del banale, sembra veramente sul 23 però scusate, oggi è così. Però sono a corto di perle e quindi la finirò qua, però insomma cercate di vedere, appunto di usare il cinema come un occhio per vedere altro veramente oltre, perché se no ci si impigrisce, e lo so che è facile, sono la prima, però poi si diventa dei fascisti merdosi, dei giudici, dei fascisti cinematografici, che guarda, il fascista cinematografico è proprio la categoria cioè peggiore dell'anima che puoi essere, veramente. Bene, viva. Bene, grazie come sempre di avermi ospitato. Oh, e, wow. È stato un enorme piacere, molto piacevole il vostro scambio. Il vostro scambio improvvisato. Non ho mai assistito dal vivo. Sono molto contento. È tutto merito suo. Bravi, bravi. Bravi, grazie. E noi finiamo ciao. Qui. Noi finiamo qui. Ciao. Non abbiamo... Ciao, carissimo. Non abbiamo parlato di diverse cose, anche sì. Che avevamo promesso, per esempio del corteo di Torino, sì. E del corteo di Verona di sabato, e del corteo anche che si è svolto nella piana contro l'inceneritore. Però ci sono i podcast. Ci sono i podcast, cioè su Radio Wombat, Passaggio Nord Ovest e Stampa Rassegnata di oggi hanno parlato a fondo, sono state puntate dedicate alla manifestazione aeroporto. Mentre consigliamo Radio Blackout per la manifestazione di Torino, ma anche per in generale sia Radio Onda Rossa sia Radio Blackout per quello che è successo a Verona. Magari parlarne ora non avrebbe senso, perché lo faremo con una fretta stupida che non ci appartiene. Bravo. E quindi rimandiamo all'ottimo lavoro dei compagni sparsi per l'Italia, che in radio fanno questo meraviglioso lavoro, e ecco, noi copiamo anche. Rubiamo a volte. Impariamo copiando e rubando. E direi che ci salutiamo, ci sentiamo lunedì prossimo. Viva Focare Polveri, viva Radio Wombat, viva gli Incamiscia, ospiti noi, viva la Virgi e Lago col cinema, viva tutti. Vabbè, allora, certo. In chiusura mandiamo un pezzo dell'Incamiscia, non ci sentirete mai più, addio. È un po' la hit dell'Incamiscia, sì. Si chiama? Pare. Si chiama... Cicerita Boom Boom. Track numero... No, è Cicerita Boom Boom. E sabato in polveriera con l'Incamiscia. Wow. Eccolo qua, sentite le trombette degli In Camicia. Sube il volume, hijos de su reputa madre. Che puledro. Cambiare si deve,